Era una giornata grigia e fredda di novembre e il mio bisnonno paterno Antonio, detto Patoni, era andato in Arla, dove possedeva la cascina, la stalla e dei prati, per prendere degli arnesi e dare una controllata prima dell'inverno. Se d'estate questi si riempivano di gente che dava il suo contributo alla fienagione, quel giorno era tutto chiuso e silenzioso. Mentre stava per entrare in cascina, intravide la veste della donna della cascina accanto, che stava entrando nella sua abitazione. Non riuscì a salutarla, tanto era sgusciata dentro, tirandosi dietro il lungo grembiule tipico delle contadine di quel tempo. Non ci fece caso sul momento, pensando di salutarla e rivederla più tardi. Mentre stava per andarsene, la rivide da dietro, mentre di nuovo rientrava. La chiamò. Ehi! Ma quella non si voltò. Lui la riconobbe, perché portava il suo fazzoletto in testa, aveva il suo tipico incedere e il suo solito abbigliamento. Patoni tornò in paese senza ulteriori pensieri, ma appena giunto in vista della sua casa, gli si drizzarono i capelli in testa dallo spavento. Solo allora, in quel preciso istante, si ricordò che la donna da lui vista per ben due riprese in Arla era ormai morta da qualche anno. Rientrò in casa come tramortito. Quando riuscì a parlare, riferì per filo e per segno alla moglie quanto gli era capitato. Lei lo vide stravolto, grigio in faccia e come mai l'aveva visto. La storia di Patoni aveva scosso tutti, anche perché lo si conosceva come uno con la testa sulle spalle, corretto, serio e molto poco incline a degli scherzi. Il giorno dopo, i parenti della defunta andarono sul luogo del fatto in Arla a ispezionare se ci fossero porte aperte o segni del passaggio di qualcuno. Ma trovarono tutto chiuso e come era stato da loro lasciato settimane prima. La conclusione dei miei nonni è sempre stata una sola. Quell'anima non aveva ancora trovato pace e si era mostrata per far capire che aveva bisogno dell'aiuto dei vivi. Quindi bisognava pregare per lei.